Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Davanti alla baia di Los Angeles c'è un'isoletta che fa parte dell'arcipelago delle Channel Islands, meta turistica frequentata dagli abitanti della Bassa California, l'isola di Santa Catalina. La barriera corallina che la circonda la rende uno dei posti più belli per chi ama vivere il mare a contatto con la natura, senza utilizzare rumorose barche a motore o moto d'acqua. Le restrizioni che regolano la navigazione intorno all'isola fanno sì che sia diventata la meta preferita dagli amanti della barca a vela, che sfruttano i costanti venti della zona per creare una connessione diretta tra l'uomo e la natura. Su una di queste barche sta navigando in solitudine un giovane attore che ama queste piccole crociere solitarie proprio per trovare una serenità che non riesce ad avere sul lavoro. Siamo sul finire degli anni 30 e questo promettente attore ha già lavorato in 39 film senza però mai avere la parte del protagonista. In teatro le mie soddisfazioni le ho sempre avute, sin dagli esordi a New York. Ma Hollywood è sempre stata diversa. I produttori si fissano su un'idea e non riesci a fargliela cambiare, anche se dai l'anima per ogni personaggio. Il nostro personaggio di oggi ha esordito nel teatro nei primi anni 20, quando ancora le doti di un attore vengono apprezzate dal pubblico più negli spettacoli teatrali, piuttosto che nelle sale del cinema. Da allora ha tentato diverse volte la strada del successo, anche nel grande schermo, ma il suo volto malinconico e la statura media che lo fanno apparire come un uomo normale lo portano a ricevere solo parti secondarie in film di scarso successo. Ogni volta che mi chiamavano per un film, io mi rendevo sempre disponibile per aumentare la mia esperienza, ma il ruolo in cui ero rimasto ingabbiato era sempre lo stesso, quello del duro, del gangster. Dentro di me cresceva ogni giorno sempre più forte la voglia di dimostrare ciò di cui ero veramente capace. Sorseggiando un bicchiere di whisky, un uomo e la sua barca a vela solcano le onde intorno all'isola di Catalina. Nei pensieri di quest'uomo c'è la ricerca di un progetto cinematografico che gli permetta di abbandonare l'immagine stereotipata del duro che alla fine di ogni film fino ad ora interpretato viene ucciso oppure finisce in galera. Ha bisogno di trovare qualcuno che riconosca quelle doti recitative che ha sempre saputo esprimere in teatro, ma che ancora i produttori di Hollywood non hanno visto o non hanno voluto vedere. Qualcuno che riconosca il vero valore di Humphrey Bogart. Humphrey Bogart. My name is Humphrey Bogart, in case of those of you in the audience who are either too young or too old know who I am. Quando nella galleria dei personaggi di un attore è preponderante il ruolo del cattivo, si pensa che ciò derivi dal fatto che il nostro attore abbia avuto un'infanzia difficile, trascorsa nei bassi fondi della città a contatto con la malavita. Invece, Humphrey De Forest Bogart è figlio di genitori benestanti. Vive in una bella casa nel West Side, uno dei quartieri più eleganti di New York, e passa la sua infanzia senza le preoccupazioni e i traumi che spesso traspaiono nei personaggi interpretati nei suoi film. Sua madre, Maud Humphrey, è una famosa illustratrice e dipinge un ritratto del piccolo Bogart vendendolo poi a un'agenzia di pubblicità. Quella illustrazione diventa celebre come The Original Maud Humphrey Baby, che identifica per molto tempo l'immagine della famosissima azienda di omogeneizzati Mellin e rappresenta il primo contatto di Bogart con il mondo dello spettacolo. Non ho mai avuto difficoltà economiche, ma la scuola non mi andava a genio e così, appena scoppiò la guerra, mi arruolai in marina tagliando i ponti con la mia famiglia. Quando tornai fu il mio amico Bill a darmi una mano. Al ritorno dalla guerra, Bogie, come lo chiamano i suoi amici, ritrova l'amico d'infanzia Bill Brady, figlio di uno stimato produttore teatrale, che gli procura una serie di lavoretti dietro le quinte. Proprio lo stare a contatto con il mondo del teatro fa crescere in Bogart la voglia di imparare tutto di quel mondo dove ognuno può essere e diventare ciò che vuole, un angelo oppure un assassino. Siamo agli inizi degli anni 20. Il cinema è nato da pochi anni ed è muto. Proprio nel 1921 esce nelle sale Il Monello, il celebre film che consacra la stella di Charlie Chaplin. Sono anni in cui i grandi attori hanno successo per le loro doti interpretative e per la capacità di esprimere stati d'animo con la gestualità, con un semplice sguardo. Il pubblico seppur affascinato da questa nuova forma di spettacolo, preferisce ancora incontrare a teatro il talento dell'attore, dal momento che solo sul palco l'abilità di recitare e interpretare un personaggio può essere riconosciuta e apprezzata. Mio padre iniziò a recitare in teatro dapprima come comparsa, limitandosi a dire una, due battute. Poi un po' alla volta si conquistò il suo spazio e ottenne parti sempre più importanti, fino a diventare protagonista. Per 10 anni fece una dura gavetta, ma alla fine si guadagnò un nome di tutto rispetto a Broadway. Dalla voce di Steven, figlio di Humphrey Bogart e Lauren Bacall, apprendiamo quanto sia stato difficile per Bogart arrivare al successo. Ed è comunque un successo limitato alla città di New York, a coloro che seguono il mondo del teatro di Broadway. Alcuni talent scout della Fox lo notano in uno dei suoi spettacoli sul finire degli anni 20 e gli propongono di attraversare gli Stati Uniti per recarsi a Hollywood, la Mecca del cinema. Bogart accetta e parte, destinazione Los Angeles, con la speranza di poter esprimere davanti alla cinepresa il suo temperamento. Abbiamo lasciato un brillante attore di teatro mentre si appresta a partire da New York, destinazione Hollywood. Con l'avvento del cinema sonoro, l'industria cinematografica americana cerca i suoi migliori talenti proprio nel mondo del teatro. Sono molti, infatti, i divi del cinema muto che nel momento in cui hanno dovuto dimostrare di saper recitare hanno fatto fiasco e sono stati messi da parte. Il giovane Humphrey Bogart raggiunge la California con molte speranze, ma in poco tempo rimane deluso. Gira infatti 5 film nel giro di un anno, ma non riesce a emergere, rimane sempre tra gli attori di comparsa. La cosa migliore da fare è tornare all'antica passione, il teatro. Mio padre, dal 1931, iniziò un continuo avanti e indietro tra New York e Los Angeles. Ogni tanto andava a Hollywood, faceva qualche film scadente, poi deluso ritornava a New York, dove invece in teatro ritrovava il suo pubblico e il successo. Questa storia andò avanti per quasi 10 anni. Dei 40 film che Humphrey Bogart recita in 9 anni di purgatorio cinematografico, l'unico che ha successo e viene ricordato come una delle sue migliori interpretazioni è La foresta pietrificata, nel quale interpreta il personaggio di Mike Manti, che con grande successo ha già rappresentato a Broadway nella versione teatrale. This is Duke Manti, the world famous killer. He's hungry. Come here. Well, so we meet again. Sit down, pal. Down there. Yeah, I'd be delighted. Humphrey Bogart è rimasto per molto tempo imprigionato in ruoli legati al mondo della malavita. Il gangster, il doppio giochista, il traditore, il vigliacco. Inoltre, non ha ancora ottenuto una parte da protagonista. Quando Boggy trova il tempo per rifugiarsi sulla sua barca e rimane solo con i suoi pensieri, il suo spirito è combattuto tra la voglia di lavorare, che lo spinge ad accettare qualsiasi parte gli venga proposta, e la voglia di tirare fuori il suo vero talento, per far vedere ciò che vale realmente. In tutti questi anni Bogart non è riuscito a far emergere quelle caratteristiche della sua recitazione che i suoi biografi oggi definiscono bogartismo. Bogie ha bisogno di trovare qualcuno che lo capisca e gli costruisca un ruolo da protagonista che risalti le sue doti di attore. Il termine attore deriva dal latino actor e significa colui che agisce. Un buon attore deve rappresentare un personaggio con la voce, la gestualità, ma soprattutto con il cuore. In più, l'attore deve essere anche parte di una storia che per avere successo deve essere convincente, verosimile. Ecco perché nel mondo del teatro, così come nel cinema, assume importanza fondamentale la trama del racconto. Oltre all'attore, il successo o l'insuccesso di un film dipendono anche da altre 2 figure professionali molto importanti, il regista e lo sceneggiatore. Quando una persona riesce nella sua carriera a fare l'uno e l'altro, ottiene ottimi risultati, poiché vede la costruzione di una storia sotto 2 punti di vista. A Los Angeles, agli inizi degli anni 30, c'è un giovane autore destinato a diventare uno dei più grandi registi che Hollywood abbia mai avuto. È John Huston. John Huston. Da bambino ho sempre avuto la passione di scrivere. Scrivevo sempre, dappertutto e quando potevo, inventavo storie, racconti. La mia era una vera e propria passione. John Marcellus Huston è figlio dell'attore canadese Walter Huston e vive un'infanzia e un'adolescenza movimentate tra una città e l'altra degli Stati Uniti, al seguito della madre, che è giornalista e con cui vive dopo il divorzio dei genitori. Spesso trascorre brevi periodi con il padre, che come attore di teatro lavora principalmente a New York nei teatri off-Broadway. John resta intere giornate a vedere le prove del padre e questo gli permette di imparare tantissime cose sulla preparazione e sulla struttura di uno spettacolo teatrale. Quello che imparai in quel periodo mi è stato utile per tutta la mia carriera. La tecnica che John perfeziona in questo periodo, osservando il padre al lavoro, è quella di fissare su carta una scena prima di girarla, in modo da avere già un progetto visivo da seguire. Questo metodo di lavoro gli permette di risparmiare tempo nella preparazione di un film, in quanto la sceneggiatura appare sempre più simile a uno storyboard, come se la storia venisse sviluppata in un fumetto. Trasferitosi in California, dove il padre inizia la sua carriera di attore cinematografico, John frequenta alcuni dei più importanti scrittori americani degli anni 30. Fu grazie a mio padre che conobbi tutti i più importanti esponenti della cultura americana di quegli anni e quando cominciai a far leggere a loro quello che scrivevo, riuscii in breve tempo a pubblicare qualcosa. I primi racconti sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista American Mercury e proprio grazie a questi, nel 1929, John Huston viene chiamato da Samuel Goldwyn, della Metro-Goldwyn-Mayer, che per una paga di $150 alla settimana gli propone il suo primo contratto come autore. In questo periodo alterna la sua attività di autore per il cinema con quella di editorialista per giornali come Esquire e il New York Times. Walter Huston, nel frattempo, diventa un attore famoso e John si ritrova a scrivere soggetti per i film interpretati dal suo stesso papà. La vita a Hollywood è piena di tentazioni, soprattutto per un giovane trentenne di bell'aspetto che inizia a vivere l'ambiente cinematografico dal lato peggiore. In pochi mesi, Huston si ricama addosso la reputazione di allegro libertino ubriacone, cadendo nel vizio dell'alcolismo. I ricordi che ho di quel periodo sono legati ad una serie di disavventure e di inconvenienti spiacevoli. L'alcol mi stava rovinando la vita e poi successe quello sfortunato incidente. Una sera, mentre è alla guida della sua auto, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, Huston travolge e uccide una giovane passante. Viene assolto dai giudici, ma il fatto lo traumatizza così fortemente da spingerlo a lasciare Hollywood e a scappare in Europa, vivendo per quasi 5 anni come un vagabondo tra Londra e Parigi. John Huston ritorna in California nel 1937, deciso a riprendere una vita normale e con l'intenzione di mettersi a fare seriamente lo sceneggiatore. Viene assunto dalla Warner, dove Huston esprime al meglio le sue doti narrative. La Warner, infatti, a differenza della Metro, che basa i suoi fatturati sui divi, predilige le pellicole d'avventura e di azione, in cui al di là degli attori è fondamentale la storia e la sceneggiatura. Quando scrivi una scena di un film d'avventura, non devi tanto preoccuparti se il divo è inquadrato bene oppure se l'attrice protagonista è ben pettinata. Se tutti e due devono saltare da una scogliera, devi trovare un modo credibile per evitare che si riducano a brandelli. E questo è quello che conta. Così a John Huston viene data una seconda chance. John Huston ha sfruttato al meglio la seconda occasione che gli è stata data ed è riuscito a farsi un buon nome come sceneggiatore. La precisione con cui si dedica alla stesura di una sceneggiatura è quasi maniacale. John si sente pronto per fare il salto di qualità, passare alla regia. La Warner non lo ostacola in questa sua aspirazione, ma malgrado le promesse di affidargli la direzione di un film, Huston deve ancora una volta dedicarsi alla sceneggiatura. Nel 1940 la Warner gli affida la stesura del film I, Sierra, che in Italia conosciamo col titolo Una pallottola per Roy. Maria, dobbiamo lasciarci per un po', come si era detto. Chi l'ha detto? Stabilimmo che se le cose andavano male ci saremmo lasciati e tu eri d'accordo. Senti, Roy, non posso lasciarti adesso. Non mi importa quel che succede a me. Restiamo insieme. Lascia andare i soldi, dimenticali, fuggiamo. Ce la faremo, saremo salvi. Piccolo, occorre denaro per viaggiare. Devo riscuotere $30,000 e li voglio. Huston ha costruito il personaggio di Roy Earl nel tentativo di convincere il pubblico che anche un gangster si può riabilitare e diventare un personaggio positivo. Per la parte del protagonista vengono chiamati i migliori attori di Hollywood, da Edward G. Robinson a James Cagney, ma tutti rifiutano di fare questo film, non convinti del personaggio che devono interpretare. Humphrey Bogart, che invece ritiene che ogni occasione vada presa al volo e che non bisogna rifiutare nessun copione, accetta la parte e ottiene finalmente il suo primo ruolo da protagonista. Per uno che in pochi anni è finito sulla sedia elettrica 12 volte, ha accumulato condanne per 800 anni di carcere. Il film rappresenta l'ennesimo film in cui interpretare il personaggio del gangster. Se non altro, penso a mio padre, è la prima occasione per fare un film da protagonista. Nelle vesti di Roy Earle, Bogart sviluppa la caratterizzazione del criminale che ha già padroneggiato in una dozzina di film precedenti e le conferisce una maggiore profondità d'animo, con l'aggiunta di elementi di contrasto come calore, compassione. In questo film, per la prima volta, l'uomo bogartiano, al di fuori delle leggi della società, ha un suo codice di lealtà, di integrità e di onore. La sua morte acquista persino dimensioni eroiche. Il merito di aver reso così umano e importante il personaggio principale del film è sicuramente di John Huston, che nella sceneggiatura delinea con precisione maniacale il carattere di Roy. Ma buona parte del successo del film dipende anche dall'eccezionale capacità interpretativa di Bogart. I due diventano subito amici, uniti non solo dalla passione per il loro lavoro, ma anche da un interesse comune che li accompagnerà per tutta la vita. Il whisky. Quando terminammo le riprese, Bogart mi invitò a fare una gita in barcavela nella baia di Catalina. Lui ha sempre avuto questa passione e mi ricordo che appena poteva affittava una barca e la portava in mare in compagnia di una bella bottiglia di bourbon. Naturalmente quella non mancava mai. Con il film Una pallottola per Roy, i due hanno la prima occasione di lavorare insieme. Ma ancora non hanno capito che il successo della pellicola è dovuto al contributo che ognuno dei due ha dato al lavoro dell'altro. Huston si è sicuramente accorto di aver lavorato con un grande attore e lo stesso Bogey, al suo 40° film, per la prima volta capisce di avere collaborato con un grande sceneggiatore. Ma deve passare ancora un anno prima che il loro incontro dia buoni frutti. Destini incrociati oggi vi sta raccontando la storia di un giovane sceneggiatore che sta aspettando la giusta occasione per iniziare la carriera da regista e quella di un attore ingabbiato nel ruolo del cattivo che non ha ancora conquistato il suo pubblico. Dopo aver ottenuto un notevole successo col film Una pallottola per Roy, a John Huston viene affidata la sceneggiatura di un altro film, Il mistero del falco, tratto dal romanzo di Dashiell Hammett, uno scrittore americano di romanzi gialli e polizieschi. Dash è uno degli uomini più straordinari che abbia mai incontrato. Era molto elegante, indossava sempre i guanti e usava il bastone da passeggio. Non seguiva affatto la moda, aveva un viso da intellettuale. A parte questo, era il più grande ubriacone che io abbia mai conosciuto. Per John è una sfida importante, perché l'adattamento cinematografico del libro di Hammett è già stato tentato 2 volte, ma in entrambi i casi il progetto si è rivelato un fiasco. Quando Jack Warner, uno dei 2 fratelli proprietari dell'omonima casa di produzione cinematografica, lesse la sceneggiatura scritta da mio padre, ne rimase affascinato, perché era riuscito a rimanere talmente fedele al romanzo originale che il copione non aveva niente a che fare con i 2 tentativi precedenti. Come affermato da Angelica Huston, figlia di John e celebre attrice, Jack Warner è talmente soddisfatto del lavoro di Huston da decidere di affidargli la regia del film, dal momento che il lavoro sulla sceneggiatura è stato così preciso e puntiglioso che solo chi l'ha scritta può occuparsi anche della regia. Per John Huston è la grande occasione per fare il salto di qualità. Ma Jack Warner fissa alcune condizioni riguardo alla produzione del film. Le riprese non devono durare più di 6 settimane e il budget complessivo non deve superare i $300.000, una cifra ridicola per la produzione di un film. Per la parte del protagonista Sam Spade, la scelta della produzione cade su George Raft, che però rifiuta, come racconta Steven Bogart. George Raft non accettò la parte nel film con John Huston, che era un regista esordiente, e questa fu una delle tante decisioni sbagliate che Raft prese nella sua carriera. Proprio nei giorni in cui John Huston sta lavorando al casting del film, il suo amico Bogey lo chiama per invitarlo a una gita in barca a vela, appuntamento che ormai è diventato abbastanza consueto nella vita di Bogart. Mio padre all'epoca era diventato un attore abbastanza conosciuto, anche se si può dire che non avesse ancora raggiunto la fama di certi suoi colleghi. Comunque era riuscito a raggiungere quella tranquillità che gli consentiva di trascorrere tutto il tempo a disposizione su una barca, che era la sua grande passione poi. Ricordo che una volta gli chiesero se fosse più importante un Oscar o la sua barca, e lui rispose senza dubbio la barca. Huston e Bogart sono a bordo del Santana, una barca a vela bellissima, appartenuta al figlio del fondatore della Union Oil Company. La barca è in vendita e Bogey ha l'occasione di provarla. I due lasciano il porto puntando la prua verso la vicina isola di Catalina. La baia di Los Angeles è colpita da un vento leggero e costante e la navigazione è piacevole, soprattutto se accanto al timone trova posto una bottiglia di ottimo whisky. Mio padre trascorreva in mare tra i 35 e i 45 weekend all'anno e Catalina era la sua meta preferita. Era l'unico posto dove riusciva a trovare quella pace e quella tranquillità che cercava. Mentre il Sant'Anna solca le acque limpide, lasciandosi alle spalle le spiagge di Santa Monica, Humphrey Bogart e John Huston, accompagnati da un buon whisky, si confidano riguardo alla difficoltà delle loro rispettive carriere. Bogey non ne può più di restare incastrato nel personaggio del duro e confessa che l'unico ruolo che gli è piaciuto interpretare fino a quel momento è stato quello di Roy Earl, che Huston ha scritto così bene per lui. Il regista racconta al suo amico Bogey la nuova opportunità che Jack Warner gli ha offerto. Le difficoltà sono tante, il budget è limitato. Il regista, alla sua prima occasione, teme di non ottenere un buon risultato. Huston non sa ancora che George Raft ha rifiutato la parte e quindi il dialogo tra lui e Bogart non ha secondi fini. Un dialogo tra due amici circondati dal profumo del mare della costa californiana. Ad un certo punto, parlando del mistero del falco, dissi a Bogart che secondo me lui sarebbe stato perfetto nella parte di Sam Spade, il protagonista, ma dissi anche che, in quanto esordiente, non avevo la possibilità di imporre alla Warner il nome del protagonista. Bogart alzò le spalle e disse: «Non preoccuparti, John, ci sarà un'altra occasione». Ma io ero convinto che l'uomo giusto fosse lui. Bogey continua a tenere saldo il timone del Sant'Anna. In cuor mio pensai, se il regista è John, che diamine, il film potrebbe essere quello giusto per me. Solo lui ha saputo capirmi a fondo per tirare fuori il meglio di me. Il giorno dopo, quando Huston viene a sapere che George Raft ha rifiutato la parte, propone immediatamente il nome di Bogart alla produzione. Dopo qualche esitazione, Jack Warner accetta la sostituzione. Il cast del Mistero del Falco è finalmente completo. Bogart, con mia grande gioia, sostituì Raft e credo che questo abbia cambiato totalmente la sua carriera. Il Mistero del Falco è un successo ed entra a far parte della ristretta classifica dei film che hanno cambiato la storia del cinema. Nell'affrontare la lavorazione del film, John Huston ha sicuramente riunito un cast perfetto di attori, per la maggior parte poco conosciuti, ma che hanno descritto nei minimi particolari le caratteristiche più intime dei personaggi. Inoltre Huston ha saputo creare un mix di tensione, sarcasmo, humor, che rende il film sardonico, sprezzante. Sì, ecco, questo è senz'altro il miglior aggettivo per descrivere questo capolavoro. Sprezzante. Le parole pronunciate da Leonard Maltin, uno dei più autorevoli critici cinematografici americani, danno un'ulteriore conferma dell'importanza che il Mistero del Falco ha avuto nella storia del cinema americano. Il film è infatti universalmente riconosciuto come il capostipite del genere noir. I film noir hanno prevalentemente ambientazione cittadina, con atmosfere buie in cui il contrasto del bianco e nero, che rappresentano simbolicamente la lotta tra il bene e il male, accompagnano l'affermarsi di eroi negativi che vorrebbero emergere con pratiche illegali. Non vorrei. Sì, tesoro, ti faccio andare in vacanza. Avrai qualche speranza di salvare la vita, il che vuol dire che se fai la brava ci rivedremo più o meno fra una ventina d'anni. Se invece ti impiccano, ti ricorderò per sempre. No, Sam. Non dirlo neanche per scherzo. Ti avevo quasi creduto. Mi prendi in giro. Hai un modo di fare così imprevedibile. Non sto scherzando. Ti mando in prigione. La scena della resa dei conti tra Humphrey Bogart e Mary Astor è indimenticabile. Sam Spade, il personaggio interpretato da Bogey, è cinico, ma mantiene un codice etico dal quale non sfugge mai. È incorruttibile, ma non scioccamente temerario, coraggioso, ma non privo di timori. Dagli uomini, ma soprattutto dalle donne, esige lealtà e fedeltà. Queste sono le caratteristiche che Bogart ha cercato di far emergere in tutti i suoi numerosi personaggi e che finalmente, dopo 41 film, è riuscito a esprimere sotto la sapiente regia del suo amico John. Oggi a Destini Incrociati abbiamo ripercorso il lungo cammino verso il successo del regista John Huston e di un attore che solo al 42esimo film trova se stesso e diventa un mito del cinema, Humphrey Bogart. Il rapporto tra mio padre e John Huston è stato una cosa inusuale nel mondo dello star system. È difficile trovare due persone che per tutta la loro carriera abbiano mantenuto così vivo un rapporto di amicizia capace di esprimersi in semplici gesti. La coppia si ritrova ancora insieme per la lavorazione di Agguato ai tropici, ma Houston deve abbandonare la direzione del film poco prima della fine della lavorazione, a causa della guerra. Mio padre fu molto dispiaciuto di dover interrompere per ben 5 anni la sua collaborazione con Humphrey Bogart. Ma, per esempio, durante la guerra continuò a perfezionare la sua tecnica di direzione realizzando alcuni documentari girati al fronte. I documentari realizzati da Houston nel periodo bellico sono così ben fatti che le forze armate decidono di vietarne la proiezione perché ritenuti fin troppo impressionanti. Il realismo che Houston mette in tutti i suoi film è senza dubbio il punto di forza che ha permesso a Bogart di esprimere tutte le caratteristiche del suo personaggio. Houston non parla molto sul set, lascia l'attore libero di trovare da solo l'espressione giusta, lo sguardo. Talvolta, per ottenere dalle attrici una smorfia di dolore, anziché parlare, afferra loro il braccio e lo torce, senza aggiungere altro. Houston era un perfezionista, curava tutto nei minimi dettagli, ma non aveva bisogno di parlare molto per farsi capire. Inoltre riteneva che non fosse necessario esagerare nella finzione. Ciò che ha fatto grande il mistero del falco, per esempio, è l'assenza di ostentazione della violenza. Non si spara mai in questa storia sanguinosa, i cadaveri ci sono ma non si vedono. Eppure il film è pervaso da un sentimento di inquietudine costante. Questo metodo di lavoro crea un'intesa perfetta con Humphrey Bogart, con il quale Houston gira altri 5 film. Ma non è di John Houston il film che 2 anni dopo consegna la storia all'inimitabile maschera con impermeabile cappello con cui Humphrey Bogart viene sempre rappresentato. Naturalmente parliamo di Casablanca. Cosa stai suonando? Una cosetta di testa mia. Beh, smettila, sai quello che mi piace. Io non so. Ma è suonata per lei, ora suonala per me. Ma le parole non ricordo. Per lei sì e per me no. Suonala. Per capire realmente quanto Humphrey Bogart sia diventato uno stereotipo dell'uomo duro, cinico, capace di fare innamorare le donne, ma al tempo stesso di lasciarle e trattarle senza alcuno scrupolo, non dobbiamo far altro che vedere le innumerevoli citazioni e riprese dei personaggi bogartiani che sono state fatte nella storia del cinema. Basti dire che lo stesso personaggio di Philip Marlowe, interpretato da Bogie nel Grande Sonno di Howard Hawks, è rimasto ingabbiato nella rappresentazione data da Bogart. Wait a minute, let me do the talking, Angel. I don't know yet what I'm going to tell him, but it'll be pretty close to the truth. Ma l'inserimento più importante della storia del cinema del personaggio bogartiano è senza dubbio quello fatto da Woody Allen nel suo film Provaci ancora Sam, tratto dall'omonima commedia teatrale. Ma che mi succede? Perché non riesco a controllarmi? Ci sarà un sistema. Non c'è nessun sistema, amico. Le donne sono creature semplici. Io non ne ho mai incontrata una che non capisse il significato di una bella sberla sul grugno o di una pallottola calibro 45. E perché tu sei Bogart? Io non potrei mai picchiare Nancy, non c'è quel tipo di rapporto. Rapporto? Dove l'hai imparata quella parola? Da uno psicanalista di Park Avenue? Io non sono come te. In Casablanca, quando hai perso la Bergman, non ti sentivi distrutto? Tutta roba che passa con un bel whisky and soda. Il tributo che Woody Allen dà al personaggio di Humphrey Bogart è un omaggio al cinema noir che Bogie e John Huston hanno saputo creare, consegnando alla storia del cinema il mistero del falco. È per questo che Allen ripropone un frammento del dialogo tratto dal film nel suo Provaci ancora Sam. Adesso deve finire tutto, io non so come fare. Non è difficile, figliolo. Sta a vedere. Devo dirti una cosa. Sì, tesoro. È finita. Che cosa? Noi due. Chiuso? Esatto, amore, chiuso, caputo. Ah, è così? Sì, tesoro. E se io non ci stessi? Non ti servirebbe a niente. E questa servirebbe? Ah, andiamo, bellezza, non hai mai saputo usare quegli aggeggi. Ma perché deve finire prima ancora di cominciare? Perché tu giochi troppo duro con me, bellezza. Sei tu che hai ammazzato Johnson. No! Parker lo ha scoperto e hai ammazzato anche lui, ma non eri soddisfatta e volevi far fuori anche me. Ma non avevi il coraggio di farlo guardandomi in faccia, allora hai pensato di farmi voltare la schiena. Ma con me non attacca, bellezza. Hai rischiato tutto e hai perso tutto. Hai visto com'è facile? Per te, perché tu sei Bogart. Lo siamo tutti, figliolo, in certi momenti. Tu stai facendo una cosa di cui non ti credevi capace. Rinunci a una bella bionda perché non vuoi fare del male a un amico. Se lo facessi io, la platea sarebbe inondata di lacrime. Negli ultimi anni, Bogart dice parecchie volte che ci sono state poche cose nella sua vita di cui andare orgoglioso, ma che il mistero del falco è stata senza dubbio una di queste. John Huston attribuisce il merito del successo del film all'interpretazione di Bogie, ma sono in molti ad ammettere che in realtà la sceneggiatura di Huston e la sua elettrizzante regia sono stati i fattori determinanti, tanto da considerare ancora oggi il mistero del falco il miglior film di John Huston. Nell'estate del 1950, Humphrey Bogart invita ancora una volta il suo amico John Huston a fare una gita in barca intorno all'isola di Catalina. La barca è ancora il Sant'Anna, ma questa volta il proprietario è Bogie, che ha acquistato la barca 5 anni prima e nel frattempo ha sposato la sua quarta moglie, Lauren Bocco. Bogie ha fatto fare una modifica e ha fatto installare vicino al timone un vassoio speciale per avere sempre a portata di mano una bottiglia di whisky e qualche bicchiere. John Huston assapora ancora una volta l'aria frizzante della costa californiana e scherza con il suo amico Bogie. Bogart racconta all'amico che un giorno qualcuno gli ha chiesto che cosa faccia andare la sua barca così veloce. Bogie, con il suo tipico sorriso, gli sussurra la risposta: Scotch whisky. Beh, Humphrey Bogart, faccio il tour insieme a lei.